Il rio cavallo non è altro che la traduzione dal tedesco Rosbach, perché Ros vuol dire cavallo, puledro, e Bach vuol dire rio, torrente, insomma, no? È un fiume che nasce da Folgaria, che raccoglie tutti i re, cioè tutte le acque reflue su di Folgaria, e dopo un tratto di circa 10 chilometri arriva in quel di Caliano, che si mette nell'Adige. Ok? A circa 28 chilometri di affluenti, il principale è il rio Gola. Fin dall'antichità, fin dall'impero austro-ungarico, questo fiume ha dato un po' di problemi. Infatti noi abbiamo fatto delle opere nei pressi di Caliano di contenimento anche della corrente. Queste opere si chiamano briglie. In più, io non so se voi avete visto che c'è anche nell'alveo del fiume, per alveo si intende il letto del fiume, e l'alveo è la superficie che compresa fra le due sponde, quello lì si chiama alveo. Poi altri tre termini, no, che possono essere utili: c'è la magra, c'è la morbida e c'è la piena. Voi tutti quanti forse avete sentito che cosa vuol dire una piena. Piena quando che il fiume è in piena. Quando che è normale si chiama morbida, e quando che è in magra vuol dire che c'è poca acqua, si dice magra.